Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Al microfono Simone Spezia per questa puntata, poi domani torna Sebastiano Barisoni, dall'altra parte del vetro ci sono Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza in redazione, Filippo Aureggi in regia e il 349-238-6666, come sempre il numero per intervenire in diretta, oltre che potete trovarci anche sulla nostra pagina Facebook per la diretta Facebook di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto ci occuperemo della Catalogna, non sarà proprio in apertura di trasmissione, ci arriveremo più avanti, però è un tema che resta ovviamente al centro dell'attenzione, per tutta una serie di motivi, quelli che sappiamo, quelli che hanno a che fare con l'economia e con i mercati, mercati che reagiscono piuttosto bene oggi ad una giornata di allentamento della tensione. Considerate che Madrid guadagna circa 1,5%, Milano guadagna lo 0,84%, che cosa è successo? Beh, le notizie di ieri ormai le conoscete. Il presidente catalano Puigdemont ha detto che verrà dichiarata l'indipendenza, però non proprio subito, ci prendiamo un momento di attesa, proviamo a trattare con Madrid. Dall'altra parte oggi il primo ministro spagnolo Rajoy ha reagito, ha risposto dicendo: insomma, chiaritecelo, ditecelo, volete l'indipendenza o non volete l'indipendenza? Perché questo attiva tutta una serie di procedure costituzionali. Dall'altra parte riceviamo adesso notizie dalle agenzie di un'intervista realizzata dallo stesso Puigdemont con la CNN, nella quale propone a Madrid l'avvio di un dialogo senza condizioni. I due governi devono sedersi e parlare sul serio con due persone del governo catalano e due del governo spagnolo. Suona un po' come un abbiamo scherzato. Vedremo però a cosa corrisponde questa offerta, cosa risponderà la Spagna a questa offerta di Puigdemont, perché per certi versi vorrebbe dire mettersi a trattare con un uomo che considera Catalogna sostanzialmente uno stato sovrano, e bisogna vedere appunto Madrid come reagirà. Di certo è ipotizzabile pensare che fra le tante riflessioni che hanno attraversato il governo catalano in questi giorni ci sia stata una concreta riflessione economica, perché dal giorno dopo nel quale proclami l'indipendenza devi battere moneta, non hai più la Banca Centrale Europea che compra i tuoi titoli, hai delle aziende che decidono di andarsene dalla Catalogna, come già avevano annunciato, proprio perché usciva dall'area euro, e non solamente per quello, insomma, però per rimanere nel sistema europeo. Non a caso la giornata di oggi è stata caratterizzata, oltre che dalle dichiarazioni di Rajoy e da queste ultime che vi abbiamo appena letto del presidente catalano, dalle dichiarazioni che sono arrivate e che avevano francamente tutta l'aria di dichiarazioni coordinate da Berlino, da Parigi e da Roma. I tre governi hanno detto che non sono disposti a riconoscere sostanzialmente, chi con toni più sfumati come Gentiloni, chi con toni più netti come Parigi e Berlino, che non sono disposti a riconoscere appunto la Catalogna come indipendente, o quantomeno non sono disposti a riconoscere l'atto di indipendenza della Catalogna. Ed evidentemente anche questo conta in uno scenario che è necessariamente, per una regione, per quanto economicamente avanzata, per quanto in buone condizioni, eccetera, eccetera, il tema del rimanere in Europa è piuttosto rilevante. Se vogliamo affiancare un altro elemento, un altro stimolo a questo tema di dibattito, sul quale come sempre siete invitati a intervenire, e non dubito che lo farete, specie gli antieuropeisti, perché so che sono particolarmente attivi nello scriverci, c'è questa intervista realizzata dalla premier britannica Theresa May nella quale, ad una domanda precisa di un giornalista che le dice: ma insomma, ma lei rivoterebbe sì alla Brexit, all'uscita? Nicchia un po', non è che risponda proprio in maniera nitida. E sarà questo il punto di attenzione sul quale andremo. Parleremo singolarmente della Catalogna e poi cercheremo di capire un po' di più a livello di scenario se questi due casi rappresentano qualcosa anche nella stessa costruzione dell'Europa. Parleremo anche di economia sommersa, verremo all'Italia perché i dati li avrete sentiti presumibilmente anche in GR24 e non solo, sono dati che sono stati diffusi oggi dall'Istat e che ci danno una stima dell'economia sommersa, dove per economia sommersa intendiamo un po' tutto, il lavoro nero, ma anche l'economia illegale pura, per esempio il traffico di stupefacenti e non solo quello, insomma tutta un po' l'economia illegale e l'economia in nero. Ebbene, secondo le stime dell'Istat, i segnali che arrivano per quanto riguarda il 2015, perché sono gli ultimi dati disponibili che abbiamo, qua sarà anche interessante e cercheremo anche di andare a capire come si calcola l'economia sommersa, perché se è sommersa per definizione non è che è semplicissimo comprendere a quanto ammonti. E però, secondo l'Istat, conta per il 12,6% del prodotto interno lordo e dopo un picco tra il 2012 e il 2014, quando è arrivata al 13%, adesso è scesa di circa mezzo punto percentuale, che è un segnale interessante e incoraggiante. Ovviamente bisognerà poi vedere che dati arriveranno per quanto riguarda il 2016, però questo è lo stato dell'arte al 2015 e approfondiremo anche questo tema. In apertura ci occuperemo invece di imprese italiane. È stato assegnato ieri un premio, il Best Performance Award, che è un premio appunto che riguarda le imprese italiane, dedicato alle realtà sostenibili a 360 gradi, e cioè che siano in grado di raggiungere insieme elementi che sono sempre più importanti, messi tutti insieme per la vita di un'impresa, perché la vita di un'impresa, ormai lo sappiamo, e i nostri ascoltatori che fanno gli imprenditori lo sanno perfettamente, non è fatta solamente di conto economico. Certo, il conto economico è fondamentale, se no l'azienda fallisce, però c'è anche un tema di sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale che sono importanti tanto per il territorio nel quale si opera quanto chiaramente se vogliamo dircela brutale, anche per quello che rappresenti all'esterno di te stesso e come vendi il tuo prodotto. Ebbene, c'è stato questo premio, che è stato un premio istituito dalla SDA Bocconi in partnership con noi, col gruppo 24 ore, con JP Morgan, PwC e Thomson Reuters, ed è un premio assegnato ad una serie di aziende tra cui Illy Caffè, FAC, quelli dei cancelli per intenderci, ve la semplifico, fa molte altre cose, però sono quelli dei cancelli, la Vimar, eccetera eccetera, e appunto faremo un punto anche sulle aziende italiane. Per quanto riguarda i mercati, vi dicevo già che qualche segnale positivo arriva, perché c'era una discreta incertezza fino a metà mattinata, fino a che non ha iniziato a parlare Mariano Rajoy. Forse i mercati erano là e attendevano che Rajoy parlasse e temevano forse che Rajoy fosse più brutale di quanto non sia stato effettivamente nel suo discorso. Mercati che sembrano tirare un sospiro di sollievo, quantomeno lo fa Milano, che guadagna lo 0,9% sul FTSE MIB e lo 0,89% sul FTSE OSHARE, con le banche che vanno bene: BPM +4,34%, Bbanca +3,85%, BPR Banca +3,44%, Unipol +2,7%, Telecom Italia +2,6%, ebbene sempre tra le banche Unicredit che guadagna il 2,30%. Lo fa a Madrid, si diceva, un guadagno di 1,5 punti percentuale, lievemente negativa Londra che cede lo 0,09%, Francoforte si è schiodata poco da questo andamento e guadagna lo 0,16%, si è schiodata poco, intendo, nell'arco della giornata, così come poco si è schiodata Parigi, che cede lo 0,10%. Vi ripeto i numeri, anche se li conoscete: 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Focus Economia di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta e siamo, come sempre, alle notizie in breve di oggi. Sì, dico all'ascoltatore che ha ragione, l'esempio storico è però solo parzialmente calzante. Mi riferisco alla persona che ci scrive che è strano che la Germania non voglia riconoscere la Catalogna, visto che furono i primi, insieme al Vaticano, a riconoscere la Croazia quando ci fu appunto la dichiarazione di indipendenza e poi la guerra. Certo, la situazione era, se mi permette di dirlo, era diversa, ma molto diversa, anche in termini di rischi di violenza. C'era una volontà di, in quel periodo che fu molto forte, della quale potremmo discutere a lungo, ovviamente, di attrarre un pezzo dentro l'Europa, un pezzo di blocco ex comunista, un pezzo di est, per così dire. Quindi presumibilmente ci sono anche delle motivazioni di quel tipo. Era tutta un'altra epoca, ricordiamocelo, era appena caduto il muro di Berlino, non, cioè, perché se ci sembra vicino a noi che abbiamo qualche anno in più, però era il 1991-92 e vado a memoria. E tutti sentiamo la vecchiaia che avanza, pensando al fatto che è un quarto di secolo. E poi veniamo alle notizie in breve. No, non parliamo della protesta davanti a Montecitorio, perché questa è una trasmissione di economia. Forse si è collegato tardivamente. Sempre a chi ci scrive. Allora, le materie prime, oro in rialzo, un più 0,1% a 1289 dollari l'oncia. Petrolio in guadagno dello 0,1% a 50,9 dollari al barile per quanto riguarda il WTI. Il Brent a 56,47, il petrolio del Mare del Nord. Questa ve la diamo anche se più sulla politica, però alla fine riguarda tutti noi. C'è uno scambio di accuse consueto ormai tra il presidente americano Donald Trump e un organo di informazione, in questo caso la NBC, che sostiene che Trump vuole decuplicare l'arsenale nucleare, lo disse ai vertici militari lo scorso luglio. Ovviamente a seguire tweet del presidente che dice fake news. Il Fondo Monetario Internazionale oggi interviene su vari fronti. Innanzitutto sulla Cina, e dice che, e questo lo abbiamo raccontato spesso anche da questi microfoni, che la finanza cinese è complessa ed è un rischio per la stabilità. Perché? Perché c'è una complessità molto forte, dovuta anche al fatto che c'è un sistema bancario ombra, un sistema finanziario ombra in Cina, e quindi non ufficiale. Che il tasso di crescita è molto forte e i rischi di stabilità finanziaria, dice il Fondo Monetario Internazionale, è forte. Per darvi un'idea, gli asset del solo settore bancario cinese, e quindi fuori dalla finanza ombra, rappresentano il 310% del prodotto interno lordo cinese. Nel 2012 erano il 240%, quindi è una crescita di circa il 60% nel giro di pochissimi anni, 5 anni. Fondo monetario che si rivolge anche alla BCE, dice che è importante che mantenga il suo impegno per una politica monetaria accomodante anche a fronte di una forte riduzione degli acquisti di asset il prossimo anno. Si Sì, poi ci arriveremo ai mercati. Qualcuno ci fa notare che la crescita di oggi ovviamente non è dovuta solamente... all'andamento della crisi catalana, ma anche alle questioni che riguardano proprio la Banca Centrale Europea. Comunque ci arriveremo tra un attimo. Intanto l'Unione Europea rilancia l'unione bancaria, dice anche eventualmente con qualcosa che chiama come Safe Assets Europei, simili agli Eurobond. I titoli delle agenzie sono rilancio l'unione bancaria anche con bond sovrani. Finanza che è minacciata, e qua torniamo al Fondo Monetario Internazionale, anche dai cyberattacchi, sostiene il Fondo Monetario, sostiene Washington, che le perdite economiche ad un ipotetico attacco informatico globale, chiaramente bisogna trovare un soggetto che sia in grado di portarlo in porto, un attacco informatico globale alla finanza, potrebbe costare 53 miliardi di dollari, 53 miliardi. Della Catalogna vi abbiamo riferito ampiamente e poi ci torneremo, i dati sul sommerso, sui quali anche su quelli torneremo. Valgono il 12,6% del PIL, a 208 miliardi nel 2015, una brusca diminuzione dal 2014. Cresce il traffico di stupefacenti, vale 11,8 miliardi, il 75% del valore totale delle attività illegali che sono in aumento, ma poi quando si parla di sommerso si parla anche ovviamente di lavoro nero, di contributi evasi. Ne ha parlato ieri proprio il presidente dell'INPS Boeri, dice che contano per 11 miliardi all'anno secondo l'INPS. Vogliamo ricordarvi che ieri la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato in relazione a cosa? Al procedimento di autorizzazione alla realizzazione del famoso gasdotto TAP. Quindi resta confermata la validità del provvedimento che ha autorizzato la costruzione del gasdotto. Vi voglio solo dire questo affinché ci ricordiamo sempre come funziona questo paese. Questo è il dodicesimo pronunciamento sul TAP, sul gasdotto TAP. Dodicesimo. Poi dice che si fatica a fare impresa. E dice il sottosegretario De Vincenti, dopo la consulta è doveroso rispettare la legge. Veniamo al primo tema di questa giornata. Come vi abbiamo detto, parleremo di aziende che riescono a mettere insieme risultati in termini economici, sociali e ambientali, e che soprattutto, e questo è un altro spunto importante della ricerca che è stata presentata ieri, soprattutto investono tanto in ricerca. Eh sì, ma lo so benissimo che il muro di Berlino è crollato nell'89, ma tra l'89 e il 92 passano 3 anni, è uno sputo nella storia, scusatemi, lo so, lo scrivete, però sto dicendo che il mondo in quel momento era in una fase geopolitica completamente diversa, e quindi il paragone, la Germania riconosce la Croazia e che non riconosce la Catalogna, che riconosce la Croazia all'epoca e non riconosce la Catalogna, secondo me regge fino a un certo punto, anzi probabilmente non regge per nulla. È interessante dal punto di vista storico, cioè può essere uno spunto. Come si diceva, ieri è stato conferito il Best Performance Award, un premio dedicato a queste realtà sostenibili che lo sono a 360 gradi. Come si diceva in apertura, è impossibile pensare oggi ad un'impresa che pensi solamente al conto economico e che non pensi agli aspetti sociali e ambientali. Devo dire, francamente, non è per piaggeria nei confronti degli imprenditori italiani, che però, salvo le eccezioni che ci sono sempre, mediamente l'atteggiamento delle imprese italiane su questo fronte, soprattutto sull'impatto sociale, sul territorio, è sempre stato notevole l'attenzione che ci hanno messo. L'analisi di 504.000 bilanci aziendali, scremando per arrivare a 70 imprese eccellenti, per un premio assegnato, istituito da Sda Bocconi e in partnership con JP Morgan, PwC, Thomson Reuters e il gruppo 24 Ore, noi. Professor Matteo Vizzaccaro, che è project lead appunto di questa Best Performance Award e docente alla Sda Bocconi. Professor Vizzaccaro, mi scusi, buonasera, benvenuto. Buonasera, Vizzaccaro. Quindi sì, sbagliano sempre tutti, ma va benissimo così. Vizzaccaro. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Ci parli un po' innanzitutto delle caratteristiche di questo premio, intendo quali sono i criteri che avete preso in esame. Ma noi come criterio principale per scremare la popolazione delle imprese, lei ha giustamente citato le 504.000 aziende, è il nostro dato di partenza, poi sono stati applicati dei criteri dimensionali e dei criteri di performance, perché abbiamo deciso di prendere soltanto quelle aziende che fossero performanti dal punto di vista della struttura dello stato patrimoniale, quindi con una PFN, una posizione finanziaria netta sull'EBITDA inferiore a 3, con un EBITDA margin superiore a quello della media settoriale, e siamo stati attenti al fatto che non avessero procedure concorsuali o azioni esecutive in corso, quindi erano aziende in buono stato di salute economico-finanziaria. Applicando questi criteri siamo arrivati ad identificare le 633 virtuose che sono poi state mappate dal punto di vista delle tematiche ESG e quindi delle tematiche relative all'ambiente, alla dimensione sociale, alla dimensione di governance, mettendoci dentro anche la dimensione innovativa, che per noi è un pillar fondamentale per alimentare la crescita futura. Sì, lo diciamo prima, una delle leve di successo è stato proprio l'impegno nella ricerca. Il 19% di queste imprese investe oltre il 4% del proprio fatturato in ricerca, no? No, la correggo, l'81% delle aziende finaliste investe fino al 4% e la short list di aziende che hanno avuto accesso proprio alla fase superfinale investe fino al 7% del fatturato. Sì, oltre il 4%, sì. Esatto. Era esattamente questo. Una ricerca che spesso viene sviluppata all'interno, in 3 aziende su 4 è presente una figura esclusivamente dedicata a quest'area, nella maggior parte dei casi gestisce un budget dedicato e sono ovviamente imprese profittevoli, suppongo. Sono imprese molto molto profittevoli, sono imprese che performano con un EBITDA margin nell'intorno del 20%, quindi la dimensione di performance economico-finanziaria è costante e ovviamente va di pari passo con l'ottenimento di performance molto positive lungo tutte le altre dimensioni di analisi. Allora, io la ringrazio, professor Vizzaccaro, a questo punto. Sì. Ok, ci siamo. E magari subito dopo la pausa andiamo a sentire la voce di qualche imprenditore, a partire da Andrea Illi, presidente di Illi Caffè, e anche l'amministratore delegato del gruppo FAC, magari. A tra poco. La natura di prima mano. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Non vi preoccupate che poi ci arriveremo alla Catalogna. Qualche ascoltatore un po' che ricorda forse le cose un po' meglio di me da questo punto di vista ci scrive che in realtà Nella Costituzione jugoslava era prevista l'autonomia, cioè la possibilità di secedere sostanzialmente, però se mi permettete, questo in merito al fatto che Berlino abbia deciso all'epoca di riconoscere la Croazia e non di riconoscere la Catalogna adesso, però se mi permettete, è un discorso che ci sta o non ci sta, e ci ragiono con voi col massimo della serenità e dell'apertura, perché... insomma, quando uno Stato proclama una secessione non è necessariamente detto che debba essere nell'alveo costituzionale dello Stato dal quale si vuole staccare. Ipotizziamo che il 100% dei catalani abbia votato e il 100% dei catalani sia stato a favore dell'indipendenza, cosa che non è stato. A quel punto, anche se la Costituzione spagnola non lo permette, non è che puoi rimanerla dentro a tutti i costi. Cioè... si procede anche la storia, evidentemente procede anche per atti di questo genere. Poi che questo sia giustificato oppure no, non lo so, in tutta sincerità, e non è difficile farsi un'opinione. Di certo i due, Rajoy e Puigdemont, hanno dato prova di una discreta creazione di confusione complessiva, mettiamola così. Comunque ci arriveremo tra poco. I premi che dicevamo poco fa, il premio principale Top Performer of the Year, cioè miglior performer dell'anno, a Illy Caffè. Andrea Illy ne è il presidente, lo ha intervistato Daniele Zinni. La sostenibilità in particolare per noi è l'altra faccia della qualità. Facciamo un grosso investimento di approvvigionamento direttamente all'origine nei paesi produttori di caffè e di formazione attraverso l'Università del Caffè per aiutarli a elevare i loro standard. A tre dipartimenti, uno per gli agricoltori, uno per gli esercenti, uno per i consumatori, e fa oltre 20.000 corsisti al mondo, all'anno. Su 8 innovazioni radicali che ci sono state nel settore caffè, 3 sono nate in casa Illy e continuiamo a lavorare molto sull'innovazione. Abbiamo fatto tutto da soli, con i propri mezzi, 100% familiare, tutto finanziato dal cash flow, senza fare un ricorso esagerato al debito, perché comunque c'è un buon equilibrio finanziario, e la nostra crescita è stata, direi, tra le aziende, quindi autofinanziate, che hanno fatto solo crescita organica, probabilmente quella che ha avuto il tasso di crescita negli ultimi 20 anni tra i più importanti. Premio come migliore azienda invece a FAAC, il produttore di applicazioni per l'automazione e il controllo degli accessi veicolari, un marchio anche questo che conoscete più o meno tutti. Andrea Marcellan ne è l'amministratore delegato, sempre intervistato da Daniele Zinni. Penso che FAAC abbia due aspetti che hanno pesato a nostro favore, diciamo. In primo è la capacità di crescita, cioè la velocità con cui questa azienda ha saputo trasformarsi ed evolversi e crescere, fondamentalmente mixando crescita interna e variazioni di perimetro, quindi acquisizioni. E il secondo aspetto, la forte capacità di autofinanziare questa crescita, cioè generare cassa sufficiente per poter alimentare un progetto che per noi, insomma, è molto ambizioso. Il nostro unico socio, quindi l'Arcidiocesi di Bologna, da un lato ci ha consentito di continuare il nostro percorso di sviluppo, il nostro progetto industriale, dall'altro ha ulteriormente enfatizzato l'impatto sociale benefico che un'impresa industriale deve e può dare per la comunità che alimenta e l'ambiente in cui vive. Non parlo solo quella italiana, ma anche del fatto che noi lavoriamo in 24 paesi, dei 2.500 dipendenti la stragrande maggioranza non vivono in Italia, ma ci occupiamo di loro e del loro progetto di vita nei termini del possibile. E dunque questo il quadro sul premio che è stato assegnato ieri. Veniamo ai mercati. Giornata positiva, un punto percentuale circa di guadagno, poco meno per il FTSE MIB e altrettanto per il FTSE OSHARE, con Madrid che guadagna l'1,34%, Parigi in lieve calo, meno 0,02%, Francoforte poco sopra la parità, anche qua. L'America è positiva anche qua di poco, più 0,05% il Dow Jones, più 0,01% lo Standard & Poor's 500. Eleonora Micheli, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Si diceva prima, probabilmente un po' d'impatto ce l'ha avuto anche la questione catalana, forse un allentamento della tensione, poi forse anche la Banca Centrale Europea. Eleonora. Esatto, infatti ovviamente questa mattina le borse erano, diciamo, impostate meglio per il mancato strappo di ieri da parte del presidente catalano. D'altra parte quest'oggi anche Mariano Rajoy, cioè il premier della Spagna, ha chiesto chiarezza alla Catalogna, quindi la situazione ovviamente rimane fluida. Ecco perché, diciamo, gli indici europei hanno registrato un andamento abbastanza contrastato. Milano e Madrid sono state senza dubbio le migliori, Madrid perché ha festeggiato il mancato strappo, Milano sostenuta soprattutto dai titoli delle banche, più, diciamo, guardinghe invece le altre borse europee. Per quanto riguarda Piazza Affari, hanno recuperato i titoli delle banche, più o meno tutti hanno messo a segno dei diciamo progressi consistenti, anche perché nelle ultime sedute erano andate abbastanza male dopo le indicazioni sugli NPL fornite dalla Banca Centrale Europea. Quest'oggi comunque il Fondo Monetario Internazionale ha indicato che l'Italia da qui a fine anno dovrebbe essere in grado di cedere oltre 60, esattamente 65 miliardi di NPL, cioè di crediti in sofferenza. E più è stato indicato che probabilmente però sarà fatta ovviamente una trattativa perché tutto ciò non avvenga troppo in fretta, e quindi questo ha dato un po' d'ossigeno, sì, ovviamente a tutti i titoli delle banche. Sì, ovviamente, e lo vediamo anche sul mercato italiano: BPM più 4,8%, Bibanca più 3,9%, BPR Banca più 3,5%, Unicredit più 2,06%, bene anche FinecoBank oggi più 1,88%. E Banca Mediolanum che guadagna l'1,05%. Ti porterò sui singoli titoli, ma dopo il traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. Delle banche abbiamo detto, Eleonora Micheli, da Il Sole 24 Ore. Ti porterei su altri titoli, per esempio Mediaset. Sì, Mediaset oggi ha limato di mezzo punto percentuale. D'altra parte ricordiamo che ha corso all'impazzata tra ieri e l'altro ieri sull'ipotesi che sia imminente un accordo con Vivendi. Oggi in verità sono emerse nuove indiscrezioni su questo eventuale accordo. E inoltre la stessa Mediaset ha confermato che di concreto magari non c'è niente, però effettivamente i legali sia di Mediaset che di Vivendi stanno trattando, e quindi questo ovviamente porta fieno in cascina per l'azienda che, ripeto, ha limato dello 0,5%. Semmai la prospettiva di un accordo che potrebbe coinvolgere anche Telecom Italia, che ricordiamo è controllata di fatto dalla stessa Vivendi, oggi ha riacceso i riflettori proprio sulla compagnia telefonica, che è salita di oltre il 2%, esattamente del 2,25%, anche perché tra i titoli, diciamo, che hanno sofferto di più, che si sono mossi meno al rialzo quest'anno rispetto a tutto il listino, per cui si è un po' riaccesa l'attenzione. Sì, qua abbiamo il titolo peggiore in assoluto oggi sul listino principale, Saipem, un meno 3,62%, qua pesa un giudizio al ribasso di Goldman Sachs. Non ci sono altri elementi, Eleonora, no? No, è Goldman Sachs che ha fatto anche una sorta di mea culpa, cioè aveva un giudizio positivo dallo scorso marzo, ma d'altra parte dallo scorso marzo le azioni hanno perso circa il 6% e anzi l'indice dei titoli oil si è mosso sostanzialmente al rialzo, quindi gli analisti hanno rivisto la raccomandazione anche alla luce del fatto che c'è troppa incertezza sui conti futuri della società. Rimangono positivi sul business, ma troppa incertezza sui conti dell'azienda, e quindi alla fine consigliano cautela. Telecom Italia, abbiamo parlato appunto di uno dei due fronti della battaglia francese, per così dire, andiamo sull'altro. Sì, esatto, appunto Telecom Italia potrebbe entrare in questo meccanismo di trattative che vedono coinvolte Vivendi e la stessa Mediaset. Praticamente potrebbe essere creata una piattaforma televisiva che coinvolge anche la stessa Telecom Italia. Ricordiamo che Telecom Italia già ha iniziato, diciamo, tavoli di lavoro per un'integrazione con Canal Plus, che appartiene al gruppo Vivendi. A quel punto potrebbe entrare in merito anche Premium, la piattaforma a pagamento di Mediaset, quindi questo coinvolge ovviamente anche la compagnia telefonica che comunque, ripeto, ha sofferto molto nell'ultimo periodo pagando dazio fondamentalmente anche all'incertezza creata dal fatto che il governo deve ancora decidere se sarà necessario esercitare la Golden Power. Proprio nei giorni scorsi il ministro Calenda ha detto che probabilmente sarà esercitata la Golden Power relativamente a Sparkle, la controllata del gruppo che si occupa delle telecomunicazioni, dei cavi sottomarini ad esempio che comunicano anche in Medio Oriente. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buona serata e buon lavoro, e noi passiamo a parlare di sommerso. Nulla a che fare con l'acqua, ovviamente parliamo di economia sommersa. Ci sono i dati diffusi oggi dall'Istat che riguardano però il 2015. L'economia sommersa e le attività illegali, dice l'Istat, valgono 208 miliardi di euro, il 12,6% del PIL. Questa è la stima appunto per il 2015. Nel complesso l'economia sommersa vale circa 190 miliardi di euro, 45% sotto dichiarazioni dei redditi, 37% lavoro irregolare, 9,6% altre voci, e poi ci sono attività illegali stimate in 17 miliardi, in lieve ma costante crescita dal 2012 al 2015. Professor Claudio Lucifora, docente di economia del lavoro all'Università Cattolica di Milano, è autore del libro Economia sommersa e lavoro nero, edito dal Mulino. Non c'è persona più adatta, direi. Professore, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Mi chiarisce prima di tutto una cosa e poi parleremo più approfonditamente con lei dopo la pausa e dopo GR24. Però intanto mi dice come si calcola, perché questa è una domanda che mi faccio sempre. A volte anche i giornali, anche noi, facciamo grandi titoli su stime che riguardano per esempio l'economia sommersa o la corruzione. La realtà è che è molto difficile stimare fenomeni di questo genere perché per definizione sono sommersi e quindi non li vedi. Come si fa? Sì, appunto, l'economia sommersa, come dice il nome stesso, è tutta quella parte di transazioni che non sono rilevate, diciamo, dai sistemi statistici. Tuttavia, diciamo, l'Italia soprattutto da questo punto di vista ha aperto la strada a procedure e metodologie statistiche molto sofisticate che sono state da ormai più di un decennio adottate da Eurostat e quindi armonizzate nei metodi che tutti i paesi europei, ma anche al di fuori dell'Europa, i paesi adottano. Sono metodologie ovviamente statistiche. Sì, ovviamente non le chiedo di entrare nel dettaglio, professore. Sì, no, non nel dettaglio. Della metodologia statistica. Sì, ma il punto è che sono, diciamo, delle stime, restano stime, ma sono molto affidabili. Vengono stimati attraverso l'incrocio di un'infinità di banche dati che registrano transazioni anche da fonti diverse e per esempio non solamente dichiarazioni, diciamo, quelle delle imprese, ma anche dichiarazioni anonime dei lavoratori che non hanno, essendo anonime, non hanno nessun interesse come dire, a dichiarare il falso, e tra l'incrocio di queste diverse banche dati emergono queste incongruenze che poi vengono stimate, come lei ha citato, nei diversi contributi a questo sommerso complessivo del 12%. Sarebbe interessante se questi incroci di banche dati avvenissero appunto sulle dichiarazioni dei redditi, tanto per fare un esempio, in parte viene fatto ma non completamente, o per esempio per il riciclaggio, tanto per dire, insomma, per identificare, no, alcuni movimenti finanziari sospetti. Comunque torneremo a parlare con lei tra poco per capire anche magari se riesce a darci un'idea, professore, di come siamo collocati a livello internazionale, perché noi ci dipingiamo sempre male, ci dipingiamo sempre malissimo da questo punto di vista, dal punto di vista delle attività sommerse e non solamente di quelle. Vorrei capire da lei come la legge. A tra poco. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto, non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Soy el fuego que... Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. È sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la diretta video su Facebook. Seconda parte nella quale proseguiremo la nostra chiacchierata col professor Claudio Lucifora, che è docente di economia del lavoro all'Università Cattolica di Milano e autore qualche anno fa di un libro che si intitola Economia sommersa e il lavoro nero, edito dal Mulino. Nella quale, in questa seconda parte, poi verremo a trattare il tema della Catalogna e soprattutto i rapporti con l'Europa, in una giornata nella quale, come vi riassumevamo poco fa, in un'azione quasi coordinata, non esplicitamente ma insomma che ne ha tutta l'aria, Berlino, Roma e Parigi hanno detto non riconosceremo l'indipendenza della Catalogna qualora venisse definitivamente proclamata. Una risposta dovuta ad un ascoltatore che ha sentito prima nel collegamento di borsa la nostra Eleonora Micheli di Radio Corriere del Sole 24 Ore parlare del Golden Power e dice: non so che cos'è, me lo spiegate per gentilezza? Sì, lo abbiamo raccontato tante volte, lo rifacciamo volentieri, perché poi a volte utilizziamo termini che non sono chiari e per rapidità giornalistica non ci mettiamo ogni volta a spiegarli. Il Golden Power è un potere, appunto, che un governo o diciamo un'entità statale può attivare nel caso consideri un'impresa strategica per qualsiasi motivo e per cui può intervenire affinché non cada, per esempio, in mani straniere. È il caso sul quale si sta ragionando in merito a Telecom Italia, per stabilire se il controllo è di Vivendi oppure no, e quindi dei francesi. Bisogna capire se il governo può attivare questo Golden Power, che a livello europeo è limitato ad una serie di aziende e ad una serie di settori, ad una serie di settori, e bisogna capire se è attivabile anche per il settore delle telecomunicazioni oppure se si troverà una soluzione politica che tenga dentro anche il grande tema di Fincantieri e via dicendo. Questo è, in sostanza, è il momento nel quale lo Stato interviene e dice: ok, più di tanto non puoi fare, ti limito i diritti di voto, per esempio in assemblea, o comunque conto più di te, investitore straniero, che sei venuto a investire in Italia. Questo è il concetto, molto semplificato. Il confronto internazionale sul tema del sommerso e delle attività illegali. Allora, professore, eravamo rimasti in sospeso con questa domanda, ci aiuti a districarci. Allora, il sommerso ovviamente non è un problema circoscritto all'Italia, solamente dell'Italia, è un problema diffuso, molti paesi ne subiscono le conseguenze. È logico immaginare che il minore è il grado di sviluppo di un paese, maggiore il grado di informalità. Quello è naturale, professore, forse mi sono espresso male io nella domanda. Quello che intendevo è, rispetto a paesi a noi paragonabili, non le sto chiedendo di paragonarci con il Messico, tanto per fare un esempio, o un paese africano, ma di darci un'idea di quello che succede. Ecco, diciamo che all'interno dei paesi a noi simili, cioè quelli dell'OCSE, l'Italia, assieme alla Grecia e ad altri paesi, è, diciamo, nella parte più elevata. Nella parte bassa, diciamo, di questa distribuzione, ci sono paesi che magari tutti quanti noi potremmo aspettarci, la Svezia, la Svizzera, il Giappone, l'Austria, gli stessi Stati Uniti, sono paesi che hanno un sommerso ma che è contenuto al di sotto del 10%. In alcuni paesi, per esempio nei paesi scandinavi, nonostante li guardiamo sempre come esempio per quello che riguarda il welfare e molti altri aspetti, in realtà a causa probabilmente dell'elevata tassazione, anche in quei paesi il sommerso è relativamente elevato e anche in alcuni casi superiore a quello dell'Italia. Questo è uno spunto interessante. Dunque, questo mi porta all'ultima domanda che le voglio fare, professore, e che ha a che fare con le possibili soluzioni. Ovviamente non le chiederò, perché qua le stime dell'Istat di oggi riguardano tanto il sommerso vero e proprio quanto l'economia illegale. Non le parlerò dell'economia illegale, perché per esempio oggi l'Istat ci dice che il traffico di stupefacenti cresce, vale 11,8 miliardi in Italia nel 2015. Delle soluzioni possibili ne abbiamo parlato mille volte, dalla repressione alla parziale liberalizzazione e via dicendo, quindi non addentriamoci in questo ginepraio. Le chiedo invece per quello che riguarda più strettamente per esempio il mercato del lavoro, che tra l'altro è una sua specifica di studio, per così dire, quali sono le soluzioni che stanno adottando i paesi, perché lei ha citato per esempio la Svizzera e gli Stati Uniti, sono due paesi con due strutture economiche molto diverse, oltre che dimensioni molto diverse. Quali soluzioni adottano, cioè qual è il sistema legislativo che gli consente di avere una minore quantità di sommerso e quindi più tasse pagate o più contributi pagati, la dico brutalmente? Sì, beh, possiamo cominciare da quello che non si dovrebbe fare, e quindi fare i condoni è, come dire, una ammissione di incapacità a gestire il fenomeno, e noi abbiamo fatto continuamente condoni, quindi questo come dire, è proprio l'esempio di quello che un paese non dovrebbe fare. Dal punto di vista di quello che si può fare, è vero che l'economia sommersa sfugge, però ormai le nostre economie sono così integrate, c'è uno scambio e una ricchezza di informazioni che è difficile che delle transazioni non lascino alcuna traccia. E su questo campo ci si sta muovendo, quindi l'incrocio delle banche dati, la vigilanza fatta mirata, come non lo ha ricordato, ma il sommerso è molto più diffuso in alcuni settori che in altri. Certo. E quindi un insieme di... Però professore, mi permette, lei mi sembra che in questo ragionamento ci porti ad approdare ad una soluzione essenzialmente repressiva. Ora, è proprio questo, e cioè il sistema è proprio quello di dosare il bastone e la carota, cioè è necessario un maggior controllo, una vigilanza, ma al tempo stesso non bisogna dare l'impressione che quello è l'unico strumento. Quello, tra le determinanti del sommerso, oltre alle tasse, ci sono la burocrazia, l'incapacità, anche l'eccessiva regolamentazione a volte induce nell'errore, a volte in buona o anche in cattiva fede, i cittadini e anche le imprese. Quindi è necessario intervenire su entrambi i fronti, per esempio moltissima formazione, bisognerebbe aiutare le imprese ma anche i cittadini a essere dei contribuenti modello. Devo dire che alcuni passi in questa direzione sono stati fatti proprio recentemente, in cui questo atteggiamento un pochettino solamente del bastone è cambiato e si cerca di avvicinarsi al contribuente cercando di aiutare ad essere conforme a quelle che sono le prescrizioni. E poi ci sono tantissime altre misure, per esempio oltre alle campagne di informazione per cambiare un po' questa cultura dell'evasione fiscale che in Italia premia un po' i furbetti, ci sono queste lotterie dello scontrino che sono state discusse anche in occasione della legge di stabilità, poi sono sempre state rimandate, ma che in alcuni paesi hanno dato buoni risultati, in Portogallo è stato adottato, in Albania, in Cina, sono misure come quella che era stata prevista nella legge di stabilità, in cui ad ogni scontrino che viene rilasciato c'è un codice, e questo codice può essere utilizzato per partecipare a delle estrazioni. Il punto sì. È proprio quello che bisognerebbe cercare di rompere questo patto collusivo tra chi vende un bene in nero e chi lo acquista, e la solita domanda che tutti noi ci siamo sentiti sempre fare è: con o senza sconto, che vuol dire le lascio lo scontrino, la fattura, oppure sì. No. Certo, quello è uno spunto. Io la ringrazio il professor Claudio Lucifora, appunto, Lucifora, perdona, qua con gli accenti oggi andiamo malissimo, docente di economia del lavoro all'Università Cattolica di Milano, per essere stato con noi. Le auguro buonasera, noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo a parlare di Catalogna. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al governo della Generalitat. Il Consiglio dei Ministri chiede formalmente al governo catalano di confermare se ha dichiarato o meno l'indipendenza della Catalogna. Si è creata confusione circa la sua entrata in vigore. Questa richiesta precederà tutte le misure che si potranno adottare secondo l'articolo 155 della nostra Costituzione. Vogliamo dare ai cittadini la possibilità di avere chiarezze su una questione di grande importanza. E la sicurezza che richiede una questione di tanta importanza. Dunque, il giorno dopo il discorso al Parlamento di Barcellona del presidente catalano Puigdemont, che ha dichiarato l'indipendenza ma l'ha sospesa per favorire il dialogo con Madrid, queste sono le parole di Mariano Rajoy, il premier spagnolo, che anche si è anche rivolto a Puigdemont, ha detto: dunque, ma questa indipendenza la vuoi fare oppure no, che non l'abbiamo capito? Riccardo Pennisi, analista politico di Aspen Institute Italia, buonasera e benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera, grazie. E buonasera ad Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles. Adriana, buonasera, ciao. Buonasera. Perché la giornata di oggi, di questo e poi parleremo con Adriana Cerretelli, è stata caratterizzata anche da questa, come si diceva, tripla presa di posizione contemporanea, probabilmente telefonata fra le tre capitali di Parigi, Berlino e Roma, che hanno detto: beh, insomma, se questi diventano indipendenti noi non li riconosciamo. E però Pennisi, la giornata, queste 24 ore per così dire, che ormai si stanno per completare dopo il discorso di Puigdemont, che cosa suggeriscono e che cosa ci raccontano? Beh, la dichiarazione di ieri di Puigdemont ha lasciato un grande numero di punti interrogativi, perché qui sono state giornate molto molto concitate, diciamo, per tutto l'ultimo mese, fin dall'indizione del referendum a oggi. Quello che si aspettava, appunto, molti indipendentisti si aspettavano la dichiarazione unilaterale di indipendenza netta, altri si aspettavano invece un passo indietro. Puigdemont ha voluto un po', forse possiamo dire, salvare capra e cavoli, cioè in un certo senso soddisfare le pressioni che dal mondo economico catalano, chiarissime con questi trasferimenti di sede verso il resto della Spagna, erano arrivati, ma anche dal Consiglio d'Europa, perché tre ore prima del suo discorso Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, lo aveva chiamato chiedendogli moderazione. Quindi un po' un passo verso questo tipo di pressioni e un altro verso comunque la macchina e tutto il consenso indipendentista che è stato messo in movimento durante gli ultimi 5-10 anni, che non avrebbe assolutamente capito un passo indietro proprio sul più bello. Da un certo sì. punto di vista, appunto, la moderazione, appunto, è piaciuta, vista anche la reazione di Berlino, Parigi e Roma insieme, quindi sì. Certamente in Europa sono stati contenti, però appunto in Spagna c'è una certa perplessità. Mi chiarisce una cosa, Pennisi. Quello che dice Rajoy, ossia, la dico molto brutale, dici se vuole indipendenza oppure no, è un'offerta di dialogo o un tentativo di accelerazione per attivare eventualmente il famoso articolo 155 della Costituzione spagnola che consente la sospensione dell'autonomia catalana? Cioè, è un modo per mettere alle spalle al muro Puigdemont, offrendogli dialogo o dicendo ora basta? Per una volta sottolineati tutti gli errori di strategia di Rajoy, non ultimo quello di mandare la polizia durante il referendum, però per una volta una mossa, diciamo, saggia di Rajoy, che vuole mettere a nudo un po' le contraddizioni del fronte indipendentista, che in realtà è molto più diviso di quello che sembra. E quindi questa richiesta di chiarimento è un po' per dire, cari moderati, se voi volete nascondervi dietro queste formule, però per in realtà arrivare lo stesso all'indipendenza, sappiate che non ve lo consentiremo. Quindi chiede un passo indietro più netto a Puigdemont, sì. E non è detto che lui possa permetterselo, perché il suo governo a Barcellona si regge in realtà sui voti degli indipendentisti radicali. Quindi va un po' a tentare di scompaginare, sì, il quadro, esatto, all'interno dove fa male, all'interno del governo catalano. Allora io la ringrazio, grazie a Riccardo Pennisi, analista politico di Aspen Institute Italia, e con Adriana Cerretelli, dunque, per fare il punto su questa tripla presa di posizione di Berlino, Roma e Parigi, abbastanza netta sulla Catalogna. Forse c'era da attenderselo, non reggono, e lo abbiamo detto in apertura, lo dico agli ascoltatori, a nostro giudizio i paragoni con il fatto che la Germania riconobbe la Croazia nel 92, era un'altra epoca oggettivamente e un'altra situazione geopolitica. Detto ciò, a tuo giudizio, Adriana, è una mossa coordinata, cioè sono dichiarazioni coordinate quelle tre che sono arrivate oggi? Ma se non lo sono state, diciamo, formalmente, lo sono nella sostanza, perché sia al vertice di Tallinn di settimana scorsa, sia ieri all'Eurogruppo e all'Ecofin, diciamo, l'Europa si è mossa veramente come un muro dalla parte di Rajoy, non tanto dalla parte di Rajoy in sé, mi spiego, ma dalla parte della posizione di Rajoy sulla legalità, cioè l'Europa non è disposta a tollerare che avvenga una scissione, una separazione, diciamo, contro la Costituzione. Mentre la questione della contro la Costituzione spagnola, mentre la questione della Scozia, quando ci fu il referendum, era stata concordata con il governo inglese e un voto di Westminster che aveva consentito il referendum, in questo caso invece c'è stata una sorta di decisione sediziosa, nel senso che il Parlamento catalano ha votato al di fuori della legalità, e addirittura in un Parlamento dove metà dei deputati erano usciti, per cui certo c'era una maggioranza, ma la maggioranza della metà, per cui insomma, diciamo che se da una parte Rajoy ha sbagliato mandando la polizia, che in realtà l'aveva mandata la magistratura, sì, ma comunque sia la responsabilità politica è sempre di Rajoy, e quindi con questa sua rigidità legalitaria ha fatto secondo me degli errori improponibili per un politico, Marchiani. Dall'altra però l'ambiguità della Catalogna e di Puigdemont in particolare è qualche cosa che danneggia il paese, danneggia la Catalogna e danneggia la Spagna intera. Adriana, quindi è normale che i leader europei si stringano intorno a Rajoy, anche perché una secessione della Catalogna in queste condizioni scatenerebbe una destabilizzazione in molti altri paesi, anche, sì, e anche finanziaria, oltre, anche finanziaria, oltre che politica. Adriana, abbiamo ancora un paio di minuti, 2-3 minuti. Voglio farti, visto che hai citato la Scozia e quindi hai citato la Gran Bretagna, voglio farti sentire quest'audio, lo voglio far sentire agli ascoltatori. I don't answer hypothetical questions. I voted Remain for good reasons at the time. But circumstances move on. I mean, I think the important thing now is that I think we should all be focused on delivering Brexit. How would I vote in a vote now against a different background, a different international background? And I'm Prime Minister ensuring that I'm going to deliver Brexit for the British people. Questa è Theresa May, per chi l'ha riconosciuta, che durante un talk show radiofonico alla domanda ma se oggi si rivotasse Brexit lei che cosa farebbe, di fatto non risponde, elude la domanda. E quanto secondo te, Adriana, se riusciamo a stare in un minuto e mezzo, quanto ha contato la vicenda Brexit, come dire, nella durezza di presa di posizione europea e dei singoli paesi europei sulla vicenda catalana? Secondo me nessuna, nel senso che sono due vicende totalmente separate, sono due storie parallele ma totalmente diverse. Lì abbiamo una Gran Bretagna che non è mai stata bene in Europa, e che in qualche modo ha sempre desiderato uscirne, quindi è un paese compatto che poi però non si rendeva conto di quello che gli sarebbe costato uscire. Infatti adesso secondo me Theresa May voterebbe per rimanere, forse voterebbe Remain a tutti gli effetti, assolutamente, con estrema convinzione. La storia della Spagna invece è una storia totalmente diversa, è un regionalismo che rialza la testa, che si fa nazionalismo e in effetti ci sono delle caratteristiche, come in Scozia del resto, nazionali, però l'unità della Spagna è un'altra cosa, insomma. Quindi non c'è un elemento anche di tensione alla disgregazione del quale i leader europei hanno tenuto conto, secondo te? Certo, quello è assolutamente la preoccupazione prioritaria, quella della stabilità dei confini, della stabilità politica europea e della stabilità economica. Perché non solo la Catalogna è un quinto dell'economia della Spagna, ma diciamo la Spagna è la quarta economia dell'euro, una destabilizzazione della Spagna riporterebbe la crisi dentro l'eurozona in un momento in cui il paese sta riprendendosi e molto bene, ma potrebbe tornare indietro di fronte a una cosa di questo genere. Ma io sono sicura che Rajoy farà di tutto per impedirle tutto questo. Il problema è come lo farà. Oggi però nel suo discorso ha detto è disposto a riformare la Costituzione. Secondo questo, sotto il linguaggio duro che usa, perché quell'altro si muove nell'illegalità, è un modo per dirgli: ti offro una via d'uscita, rinegoziamo la Costituzione e facciamola finita. Vedremo come andrà a finire questa vicenda catalana. Intanto grazie ad Adriana Cerretelli per essere stata con noi, a Filippo Reggi in regia, Barbara Bianchi in assistenza e redazione insieme a Mauro Del Corno. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.